Ettore ha messo in pausa il videogioco, si è alzato dal divano, ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni un foglietto, tutto spiegazzato, e mi ha letto il titolo del tema. A pochi giorni dalla fine della scuola, guardo indietro all'anno appena trascorso. Cosa mi è accaduto in questi 9 mesi di scuola e di vita? Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. È un qualunque martedì, 24 maggio 2011, sono le 16:07. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. 10 anni fa era il 2001. 10 anni fa avevo 26 anni. Questo è tutto quello che mi è accaduto in questi 10 anni, nel bene e nel male. Finisco l'accademia e inizio la mia prima esperienza di convivenza. Inizio a fare teatro di prosa, quello noioso, quello che ti portano a vedere le professoresse a scuola o tua moglie il mercoledì sera. Inizio a frequentare l'isola di Caprera e la sua scuola di vela. È che mi piacciono le vacanze in cui alla fine si è imparato qualcosa. Mi sfidanzo, mi rifidanzo un paio di volte. Faccio il mio primo volo transcontinentale andando a New York. Inizio a lavorare in una piccola radio di Milano, poi in una grande radio pubblica. Nel frattempo conosco Giulia. Smetto di andare in giro per i teatri italiani. Compio 30 anni e inizio a pensare a cosa pensavo quando a 20 anni mi immaginavo i miei 30. Ma quello che ne esce non mi piace per niente. Finché arriva l'8 settembre del 2008, io da un giorno all'altro perdo la memoria. Giulia mi lascia. Decido di capire che cosa voglio e cerco di realizzarlo. Per farlo vendo tutti gli oggetti della mia vita. A settembre riprendo a raccontare la mia vita quotidiana qui, in radio, come se fosse un romanzo a puntate. 10 anni fa era il 2001. 10 anni fa avevo 26 anni. Questo è quello che mi è accaduto in questi 10 anni. E ecco, io sono qui. E a voi, negli ultimi 10 anni di vita, cosa è successo? Per raccontarmelo c'è un numero che è sempre quello, è 800240024, oppure con un sms al 349-238-6666. Si tratta veramente di fermarsi 2 minuti e mezzo, 3, da quello che state facendo in questo momento alle 4:10 del pomeriggio, di un martedì pomeriggio qualunque, proprio in mezzo alla settimana. Di fermarvi 2 minuti e provare a ricordare chi eravate nel 2011, nel 2001, perdonatemi. Chi eravate nel 2001, quanti anni avevate e che cosa è passato in questi 10 anni. È un esercizio che ho cominciato a fare ieri sera, perché adesso vi spiego il perché l'ho sentito fare da altre persone, tra cui Ettore, che doveva farlo per, come compito in classe, come compito a casa, come tema. Però è un esercizio che non è male. Sui 10 anni, 10 anni più o meno sono 2 lustri, è un bel periodo per valutare che cosa è accaduto e come è cambiata la nostra vita. Quindi parliamo delle cose sostanziali, cioè le cose che in un modo o nell'altro vi hanno toccato al punto da rendervi conto che siete diversi rispetto al 2001. Al 2011, 10 anni fa, avevate 10 anni meno. 800240024 349-238-6666. Serena, vi faccio alcuni esempi, ad esempio. Serena, nel 2001 avevo 17 anni e mezzo. Da allora ho dato il mio primo bacio. Mi sono iscritto all'università. Ho timbrato per la prima volta il cartellino. Mi sono innamorata. Ho perso e ritrovato la mia migliore amica. Mi sono laureata ma continuo a studiare, perché sono spaventata dal dover trovare un lavoro vero. Mi sono innamorata della canzone Heroes di David Bowie. Ho scoperto che mi piace abbastanza stare in equilibrio su una tavola da windsurf, cercando di prendere il vento. Sono andata a convivere. Sono stata nominata maestra indiscussa nell'arte di schivare i lavori domestici. E poi sono diventata improvvisamente quasi una zia e mi riscopro fabbricante di sonno. 2011, ho 27 anni e mezzo e io sono qui. 349-238-6666, questa è la Serena. Pietro, negli ultimi 10 anni quello che mi è successo, in ordine cronologico. Sono andato a convivere con la mia ragazza. Mi sono sposato. Sono diventato dipendente dalla cocaina. Ho iniziato a portare a buon fine un percorso per uscire da quella dipendenza. Ho avuto un figlio, ho comprato casa, ho avuto un secondo figlio, ho cominciato a coltivare un orto. Sono felice. Pietro ovviamente è un nome di fantasia, perché lui ha chiesto giustamente di rimanere anonimo. 800240024 349-238-6666. Questa roba vale anche per voi ovviamente. Se avete voglia dell'anonimato, noi decidiamo un nome, che è sempre quello, che è Pietro per gli uomini e Pietra per le donne. Avrei dovuto dire Paolo e Paola, però Pietro era partito così e quindi rimane Pietro, perché possono essere successe delle cose piacevoli o meno piacevoli nella vita di una persona. Si tratta tratta semplicemente di un arco temporale abbastanza largo, ma anche abbastanza stretto per poter fare i calcoli in un paio di minuti di quello che mi è successo e scriverlo con un SMS. Oppure chiamare al telefono. Francesca, ho lasciato il lavoro della mia vita a Roma e la città in cui avrei voluto vivere per sempre, per dare a mio figlio una quotidianità fatta di affetti radicati al nord. Ho divorziato, non esattamente una passeggiata. Mi sono riscritta all'università, mi sono innamorata follemente. Ho insegnato teatro inglese ai bambini. Ho portato il mio compagno a fare paracadutismo e l'ho visto morire in un lancio. Non ho capito se questo è metaforico oppure no. Sono praticamente diventata alcolista e ne sono uscita. Ho lottato accanto alla mia migliore amica per combattere il cancro e abbiamo vinto. Ho lottato accanto a mia suocera per combattere il cancro e abbiamo perso. Ho letto il Buddha Geoff. No, scusate, il Buddha Geoff ed io. Perdonatemi la pronuncia, forse non l'ho. Il Buddha Geoff ed io. Non lo so, vabbè, magari Viola cerca. Oggi ho 31 anni. Devo dire, Francesca, che dai racconti sembra che tu ne abbia 51 di anni. Evidentemente sono stati molto intensi. Jacopo, sono diventato genitore, mi sono sposato, ho trovato un lavoro stabile, ho messo su casa, ho cominciato ad ascoltare il metal e Radio 24. Questo sempre per la serie Metallari Ascoltatori della Radio. In pratica, a parte il punto 5, dice: vivo in una prigione. Poi ci sono invece messaggi che, come dire, raccontano che in questi 10 anni hanno fatto una cosa importante, tipo Lorenzo, dopo tanti sforzi sono dimagrito, o Michele, mi sono dichiarato gay. Qualsiasi sia stato l'elenco di cose, lungo o corto, che avete fatto in questi ultimi 10 anni, se avete voglia di raccontarmelo, il numero è sempre quello, 800240024, oppure con un SMS, 349-238-6666. Questa roba degli ultimi 10 anni è nata per questo motivo qui. Ieri mattina mi sono svegliato tardi. Devo aver sentito male la sveglia. E poi non so se la sveglia la si possa sentire male o semplicemente proprio non sentire. Oppure svegliarsi, spegnerla, riaddormentarsi e poi essersi dimenticati di tutto. Comunque, vabbè, mi sono svegliato con la voce profonda del dottor Salvati che parlava con un suo paziente. Che è un po' strano, perché di solito lui parla molto poco. Eppure in questo caso lui continuava a parlare. E diceva tutte cose a proposito del fermarsi, di non fare salti indietro o in avanti, di evitare le accelerazioni improvvise. Diceva che la nostra è una maratona, non è una corsa di 100 metri. Non si tratta di velocità, ma di resistenza. A me è venuto in mente quando facevo la corsa campestre al liceo. Ecco, quando facevo la corsa campestre al liceo, avevo trovato un metodo per resistere e per arrivare fino in fondo. E il metodo era fare finta di niente. Cioè, io non pensavo alla corsa mentre correvo. Pensavo solo al mio corpo e lo immaginavo diviso a metà. Le gambe dalla vita in giù e la mia testa e i polmoni dalla vita in su. E cercavo proprio di separare lo sforzo, in modo da non sentire la fatica e quindi non sentire neanche il dolore. Quindi le gambe diventavano indipendenti e andavano da sole. All'altezza della pancia c'era come una specie di diga che bloccava il flusso del movimento e quindi la testa era libera di fare altro, pensare a cose diverse, insomma, in una parola, distrarsi. Io ero orgogliosissimo di quella tecnica, e infatti non la dicevo a nessuno. Addirittura mi sembrava così elementare che mi stupivo del fatto che nessun altro l'avesse scoperta e utilizzata prima di me. E io partecipavo a tutte le corse campestre della scuola. Non era un fenomeno, però me la cavavo. Il professor Perdichizzi era orgoglioso di me. Finché un giorno caddi rovinosamente a terra durante una gara, mi raschiai tutta la gamba destra e sono finito a tanto così da un paletto di metallo che delimitava il percorso. Mi ritirai dalla gara, ovviamente. E quando Perdichizzi mi chiese cosa era successo, io gli raccontai tutto. Cioè, gli raccontai del metodo. Lui si arrabbiò molto. Mi chiese ad esempio a cosa stessi pensando in quel momento. E io gli risposi: ma in quel momento stavo facendo il conto di quanti soldi dovevo risparmiare per comprarmi il booster. Lui mi disse che non potevo distrarmi mentre correvo. Io gli dissi che lo dovevo fare, per non stancarmi, per non sentire il dolore. Era il mio metodo. Lui mi disse che se non sentivo il dolore e non sentivo la fatica, era come se non stessi correndo, quindi non valeva nemmeno la pena farlo. Da quel giorno smisi di usare quel metodo. Poi feci altre corse campestri e più o meno mi piazzai sempre nelle stesse posizioni, solo che facevo una fatica infinita. Ecco, il dottor Salvati ieri mattina mi sembrava un po' il professor Perdichizzi mentre parlava col suo paziente. Gli diceva che non poteva fare finta di nulla, fare finta che niente fosse successo, non poteva distrarsi facendo altro, perché doveva rimanere in quello stato lì, in quello che stava vivendo. Io mi sono preparato un tè, in silenzio, un po' per non dare fastidio e un po' per rimanere in ascolto. Ho sentito che il paziente diceva che gli sembrava di essere immobile da 10 anni, gli sembrava di non aver fatto nulla da 10 anni, nulla di diverso, nulla di nuovo o di sensato. Ho sentito un rumore di una sedia che si spostava, un cassetto che si apriva e poi la voce di Salvati che diceva: bene, allora facciamo così, facciamo un bel elenco, eh? Facciamo l'elenco delle cose che lei ha fatto in questi ultimi 10 anni. Dottore, l'elenco delle cose che ho fatto in questi ultimi 10 anni. Ho passato la boa dei 50, ho cambiato lavoro, facendo finta che non mi piacesse più, anche se in realtà ho evitato che mi licenziassero loro. Ho cambiato casa, ne abbiamo presa una un po' più grande perché i miei figli volevano una stanza ciascuno. Siamo andati a vivere fuori città, ho preso un cane, ho cambiato 4 automobili, di cilindrate sempre più grandi. Ho votato per 2 parti politiche completamente diverse. Mi sono innamorato. Ho fatto vacanze al mare ogni anno in un posto diverso. Io e mia moglie abbiamo festeggiato i 25 anni di matrimonio. Mia moglie è invecchiata. Ho capito che non potrei vivere lontano da lei. L'ho capito quando sono stato a tanto così dal perderla. Ho letto il libro più bello della mia vita, si intitola Everyman. Ho perso mia mamma. Un amico si è gravemente ammalato e non sono stato capace di rimanergli vicino. Ho iniziato a venire qui da lei. Sono andato al cinema con mia moglie e il solito gruppo di amici quasi ogni mercoledì sera. Sono diventato vegetariano e poi ho smesso. Ho smesso di fumare e poi ho ricominciato. Ho sperato che mio figlio entrasse in una squadra di basket di Serie A, ma alla fine non c'è riuscito. Ho sperato che mia figlia diventasse intelligente, ma non è successo. Ho iniziato a pensare alla pensione. Spero di andarci, anche se mi fa un po' paura pensarci. Ho scoperto che ho paura anche del vuoto, che dormo male la notte e che il mio sogno di aprirmi un ristorantino, prima o poi, in vecchiaia, era solo un alibi. In sostanza, dottore, mi sembra di stare peggio dei 10 anni prima, così come quei 10 anni mi erano parsi più brutti di quelli precedenti. Ecco, più o meno, in ordine sparso, dottore, questo è quello che ho fatto negli ultimi 10 anni della mia vita. Wasted hours before we knew where to go and what to do. Wasted hours that you make new and turn into a life that we can live. I 10 anni del paziente del dottor Salvati mi sono rimasti impressi per tutto il giorno. Era stata una lista spietata di quelle che non lasciano speranza né possibilità di fuga. Per un attimo ho pensato di farla anch'io. Poi sono stato preso dal terrore, però inevitabilmente mi sono venuti in mente a 26 anni, quando ancora non sapevo come sarebbe andata la mia vita. Non lo so nemmeno ora, però quantomeno ho preso un indirizzo. Mi sono venuto in mente in un appartamento da studenti, anzi da ex studenti, che non hanno ancora i soldi per permettersene uno più grande, magari da soli. Con tempo libero è il panico di quelle giornate vuote. Stavo veramente per immalinconirmi quando fortunatamente Ettore ha suonato il campanello. Ormai riconosco il suono, è breve e attutito, come di chi ha paura di dare fastidio. È entrato in casa con la faccia scocciata. Gli ho dato un pacchetto di fonzi che ormai compro per lui, perché so che in casa non potrebbe nemmeno chiedere di comprarli. Si è messo sul divano e ha acceso la TV, altra cosa per la quale potrei essere fulminato dai genitori. Ha guardato un po' di Discovery Channel, poi si è messo a giocare alla PlayStation. A un certo punto gli ho chiesto che cosa avesse, lui mi ha detto che non ce la fa più con i compiti, che la maestra non fa altro che dare esercizi a casa. Adesso la novità è un tema per la prossima settimana, solo che non sa da dove cominciare. Io ho capito che volevo una mano, quindi gli ho detto che se gli andava potevo aiutarlo. Lui ha messo in pausa il videogioco, si è alzato dal divano, ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni un foglietto tutto spiegazzato e mi ha letto il titolo del tema. A pochi giorni dalla fine della scuola, guardo indietro all'anno appena trascorso. Che cosa mi è accaduto in questi 9 mesi di scuola e di vita? E vabbè, allora è proprio un tormento. Ho 800 24 0024, oppure 349 238 6666. Un riassunto veloce degli ultimi 10 anni di vita, una roba tipo quella di Pietro, che è super veloce a dire la verità, perché sta in neanche in una riga di un SMS. 2 figli, 20 kg in più, 500 volte sesso. Che non ho capito però Pietro come ha fatto a calcolare, cioè hai fatto una media ponderata, 500 volte sesso vuol dire 50 all'anno, vuol dire 12 diviso 50, una volta a settimana più o meno. Sì, una volta a settimana. E poi è un messaggio anonimo che dice: avevo 9 anni, a quell'età immigrai dall'Albania. Da lì in poi ho cambiato 20 residenze, 4 città, 14 scuole e tutte diverse, svariate esperienze. E adesso io sono qui. A 41 anni, il 10 settembre 2001, mi sono trasferito da Milano per vivere ai piedi del Monte Grappa. Dopo 2 separazioni, 2 riappacificazioni, è nato il nostro secondo figlio, a distanza di 14 anni dalla prima, ed ora mia figlia. A 14 anni dalla prima. No, evidentemente sono io che non so leggere. È nato il secondo figlio a 14 anni di distanza dal primo figlio, che era una femmina. Ed ora mia figlia, la prima, forse si trasferirà di nuovo a Milano per università. E noi invece pensiamo di trasferirci di nuovo in un'altra regione. Andiamo invece a sentire. Aspetta, che vediamo chi c'è. Andiamo a Bologna da Michela. Pronto, Michela? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Quanti anni hai, Michela? Bene, 35, quasi 36. Quindi la voce della dodicenne è semplicemente perché c'è una dodicenne dentro di te? Sì, magari, in parte così però. Che cosa fai nella vita? Faccio la giornalista. E che, perché testata, giornale, rivista o internet? Per un'agenzia stampa. Per l'ANSA. Ah, ok, perfetto. A Bologna però. Sì. A Bologna, sei di Bologna. Michela, cosa c'è che non va? Però ti sento un po' giù di morale. No, è solo perché sono caduta dal motorino e ho un polso rotto e... Ma allora c'era veramente qualcosa che non andava, Michela? Fuori uso. Ma da quando? Dall'8 maggio. Dall'8 maggio, benissimo. Però Michela, non voglio rubare altro tempo prezioso a te e all'ANSA, altrimenti anche qua poi noi ne subiamo chiaramente gli influssi negativi. Dimmi... No, non sono a lavoro però, permesso, non sono a lavoro, sono ovviamente a casa, visto che non posso usare il polso destro, quindi non posso scrivere. Ah, la vivo un po' come una giustificazione però, Michela. No, ma non sono a lavoro, non sto telefonando dal lavoro, figurati, non lo farei mai. Io quando lavoro, lavoro, non faccio nient'altro, lavoro e basta. Vabbè Michela, veniamo a questi 10 anni, avevi 26 anni, dimmi che cosa hai fatto in sostanza in questi 10 anni. Mi ricordo che nel 2001 ero a Pisa e stavo studiando. Mi ricordo che quando c'è stato il crollo delle 2 torri a New York, stavo studiando per fare l'orale per l'esame per la scuola di giornalismo, per entrare alla scuola di giornalismo di Bologna. Uh-huh. Era il mio sogno e l'ho realizzato, sono entrata e oggi appunto già da un po' di anni faccio questo mestiere. Poi nel frattempo ho cambiato città più volte, ho perso il lavoro, sono stata cacciata da una redazione, sono entrata in altre, ho girato un po', però... Sentimentalmente, Michela, parlami dell'amore. In tutto ciò c'è stato un amore storico, un fidanzato storico, io che facevo finta di essere la fidanzata perfetta, non lo ero, quindi ho mollato tutto e poi ora sono... un po' sulle montagne russe con un altro fidanzato. Da quanto? Da un paio di anni. Perché sulle montagne russe, Michela? Scusami, poi ti saluto. Perché è un po' un alto e basso, molto più divertente, ma anche alle volte più, insomma, a volte è stato faticoso. Cos'è, uno squatter di Bologna? Cos'è, un musicista? No. Cosa fa nella vita? Fa un mestiere simile al mio, non in modo esclusivo, Va bene, non vado oltre, Michela, però ti ringrazio, riguardati il polso e stai su. Va bene. Va bene? Buona grazie. Giornata, Michela, grazie a te. Grazie. Ciao, e buoni prossimi 10 anni. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo in una curva. Cioè, nel senso che c'è una strada che fa una curva. Ci sono delle piante immerse nella nebbia o nel vapore acqueo. C'è un sacco di fango, quindi sta chiaramente piovendo. In lontananza c'è una Toyota, un fuoristrada. E c'è un uomo vestito con un abbigliamento tecnico antipioggia. È un uomo attorno ai 50 anni. 40. 45, via. Coi baffi e un paio di occhiali. E potremmo essere anche nei boschi sopra la Val Brembana. Però c'è un bambino che sta correndo fuori dall'inquadratura, che è vestito come sono vestiti più o meno in Medio Oriente. Francesco Rigamonti, 33 anni, perso sulle colline intorno a Islamabad, in mezzo a fango, pioggia e nebbia. Ma il monsone non arriva a giugno, io sono qui. Benissimo, allora siamo in Pakistan, che Viola mi dice non essere in Medio Oriente. Viola, ti prendi ogni responsabilità geopolitica. 800240024, le cose che avete fatto in questi ultimi 10 anni, e mi piacciono i messaggi stringati. Questi ultimi 10 anni, smesso di fumare, un rene in meno, corso una maratona, viaggiato in Oriente e Latin America, adottato un cane, diventato un sub, Pino. Sono tornato da una missione di volontariato di 2 anni, ho incontrato mia moglie, mi sono innamorato, sposato, avuto 3 figli, cambiato 3 volte lavoro, sempre in meglio. Ci siamo trasferiti, ho ripreso l'università, non c'è che dire, sicuramente sono qui e sono felice. Emanuele, ho imparato ad apprezzare questo è il mio preferito. Stefano, sei un genio. Negli ultimi 10 anni ho imparato ad apprezzare e amare gli asparagi, a fare i rebus, e ho vinto 2000 euro al Gratta e Vinci. Stefano, al momento detieni i 10 anni più interessanti della storia. Andiamo però a sentire direttamente da Prato Alberto. Pronto Alberto? Sì, sono qui. Ciao, grazie per essere qui, come stai? Ciao Matteo, bene bene. Senti, dimmi cosa hai fatto, come me l'hai descritto. Hai vissuto 3 anni ad Amsterdam. Sì, poi. Esatto, facevo il medico lì, dopo essermi specializzato in Italia, ho vissuto 3 anni ad Amsterdam, dove ho fatto il medico, e una settimana prima di partire ho reincontrato la donna della mia vita, la ragazza di cui mi ero innamorato al liceo, ma non c'era stato niente perché era troppo una brava ragazza, io allora. E tu eri un cattivo ragazzo, un po' invece. Malandrino. Poi invece cosa è successo? Che lei è diventata. Prima di partire e ci siamo innamorati. E così lei mi ha seguito e le ho detto: senti, se vieni in Olanda con me e va tutto bene, dopo un anno ti sposo. E l'ho sposata. Benissimo. Hai scritto un libro. Fatto. Alberto, scusami, fermati un secondo. Hai scritto un libro anche. Sì, ho scritto, ma non è un libro interessante, almeno è un libro di medicina, lo sto pubblicando adesso. Dimmi come si intitola. Colleghi indiani. Dimmi come si intitola. Ah, sì, si intitola The Reconstruction Technique of... Insomma, è in pratica la tecnica di ricostruzione dei difetti del cavo orale dell'orofaringe. Benissimo, allora poi sentiamo Nicoletta Carbone che sicuramente ne sa di più. Alberto, ti ringrazio molto e buoni prossimi 10 anni. Grazie. Buona giornata. Ciao. Andiamo a Cuneo da Fulvio. Pronto Fulvio? Sì, sono qui. Bravissimo. Buongiorno. Ma sei in macchina Fulvio? Sono in macchina, spengo il tutto. No, figurati, l'importante è che tu non stia guidando senza un auricolare. Partiamo dal 2001, che cosa facevi? Ma nel 2001 per me è stato importante, in quanto sono stato nominato dirigente d'azienda, un'azienda privata, una multinazionale, pensavo di aver raggiunto l'apice della mia carriera e ho cominciato a lavorare ancora più duramente in Italia e all'estero. Poi nel 2007, casualmente, mi hanno riscontrato un tumore maligno particolarmente difficile, ho iniziato un iter molto. Dov'era? È un linfoma di Hodgkin, praticamente una delle malattie legate a problemi di sangue, leucemie sostanzialmente, eccetera. Era il 2007. Questo è il 2007, quindi dal 2001 al 2007 è stato grande un momento carriera grande aziendale. Carriera impegnativo, okay. Eccetera. Nel 2007 uno blocco totale, nel senso che ho iniziato un iter di 1 anno e mezzo di chemioterapia durissima, radioterapia, mi ha cambiato totalmente la vita perché ho trovato un'umanità eccezionale, ho scritto un libro che ha venduto 1500 copie. Come si intitola il libro? Il libro si intitola Ti vedo bene, storia semplice di un semplice malato di cancro. Ti vedo bene, ma Fulvio, ti vedo bene perché mi piace anche l'autoironia, ti vedo bene. Sicuramente, assolutamente autoironico, tanto è vero che viene utilizzato come sostegno psicologico ai malati di leucemia. Fulvio, senti, e poi ti saluto, dimmi come stai adesso. Sto benissimo, ho ripreso con un'altra visione. Tutte le mattine quando però mi alzo, che piova, che ci sia la neve o che ci sia il sole, per me è una bellissima giornata. Immagino. Fulvio, grazie mille e buoni prossimi dieci anni. Ciao. Andiamo a Palermo da Paolo. Paolo è un nome finto, giusto Paolo? Sì, buongiorno. Buongiorno, quindi ci siamo capiti Paolo. Non so su che cosa, però sul fatto che sia un nome finto. Raccontami questi ultimi 10 anni, le cose chiaramente salienti. Ma in questi ultimi 10 anni ne sono successe tante, sia nella vita professionale che nella vita privata. Questi ultimi 10 anni ho perso i miei genitori, prima uno e poi un altro. Di uno ne eravamo al corrente, nel senso sapevamo che c'era poteva un male succedere. Incombente. Mm-hmm. L'altro è arrivato proprio improvvisamente. Improvvisamente, senza che nessuno mai se l'immaginasse. Poi ti sei separato, mi dicono. Mi sono separato anche se non ero proprio sposato, convivevo. Vabbè, però, insomma. Quanti anni hai Paolo adesso? Io ne ho 42. Senti, poi hai iniziato un nuovo lavoro? non ho iniziato un nuovo lavoro, è stato sempre il mio lavoro, l'ho iniziato nuovi incarichi, diciamo, che mi hanno portato a volte anche a passare dalla parte del, tra virgolette, del male. Cioè, me la spieghi questa, me la spieghi? È il motivo per il quale ti ho dato anche un altro nome. Cioè? Cerco di spiegartelo in due parole. C'è il bene e c'è il male nella vita di tutti i giorni, dico. Se, o magari qualche sfumatura in mezzo anche. Legalmente parlando, diciamo. Ah, okay. Quindi c'è il bene e c'è il male. Mm. E quindi il mio lavoro tante volte mi porta a passare dalla parte del male. Vabbè, fammi capire. Ovviamente a fin di bene, poi alla fine, però. Però non me l'hai ancora spiegata, Paolo. Fai l'infiltrato. Mondo, sì, più o meno sì. Sì. Cioè, scusa, fare l'infiltrato vuol dire semplicemente non far finta di essere un ufficiale delle forze dell'ordine e mettersi, sì, giusto, vestirsi. Hai corto nel senso, sì. Ok, ma questa attività dura da quanto? Ma praticamente da 20 anni. Cioè, quindi praticamente tu... Praticamente da 20 anni. Adesso lo stai facendo? Negli ultimi 10 anni in una maniera più assidua. E dove sei stato? Dappertutto. Ma dappertutto in Italia? Anche all'estero. Non puoi farmi un esempio? Guarda, se hai un mappamondo vicino a te, lo giri in entrambi i lati, sia in orizzontale che in verticale, penso di averli passati tutti quei posti. Quanto guadagna un infiltrato delle forze dell'ordine? Poco più di un operaio. Ehi. Cioè, meno di 1.500. Dipende. Diciamo che le cifre sono quelle. Non dare alito a. No, non lo diamo. Non lo diamo. Tante chiacchiere che dicono che sono super pagati. Non diamo alito a nessuno. Paolo, senti, ti ringrazio anche perché mi sembra di capire che hai da raccontare, ma non puoi farlo. E quindi ti ringrazio, infatti, e ti saluto. Infatti. Buoni prossimi 10 anni, grazie mille. Anche a te. Ciao. Chiudiamo con un racconto che, come al solito, è il racconto che vi racconta. Questo ha un titolo che mi piace già solo il titolo, poteva bastare il titolo, però no, andiamo avanti. Si chiama L'uomo che mi portò via la sedia a dondolo. Sabato pomeriggio, quasi sera. Un tempo che sta diventando brutto davvero. Ci si sta preparando a mangiare la cena. Ad un tratto suona il campanello. Apro. Un tipo improbabile che sembra un hippie con berretto consunto di jeans alla Vasco, pizzetto con baffi incolti, braghe mezze distrutte e t-shirt sporca. Ah, è un paio di scarpe da ginnastica, quelle nuove però. Stanno venendo giù dei goccioloni che sembrano secchi d'acqua lanciati da chissà chi, dal cielo. Io lo faccio entrare nell'antro. Mi chiede se ho mobili vecchi, credenze, comodini. Io lo accompagno giù per le scale, in garage. Gli faccio vedere quei 4 mobili che ho in casa. Lui li guarda, li scruta, li passa ai raggi X. Sembra un bambino che si è tuffato in una vasca di caramelle, ma subito mi fa, no... Niente roba di valore. E li batte con le nocche della mano come a sentire se sono pieni di tarli o no. Facciamo per tornare su. Poi lui ci pensa un attimo e dice: vabbè, mi prendo una sedia a dondolo, dai, giusto per non tornare a casa a mani vuote. Prende la sedia, saluta, ringrazia ed esce dal garage. A ripensarci, è stato davvero surreale. Tutto troppo veloce. E non so neanche io chi devo ringraziare. Ma almeno ho un po' più di spazio libero. Che un episodio come questo, semplice, quasi insignificante, uno che viene nella tua cantina e ti porta via una sedia a dondolo e in qualche modo ti racconta. Io sono qui, @radio24.it, per continuare a mandare il racconto, mentre ve lo dirò con più calma un'altra volta. Preparatevi, il 23 di giugno è un giovedì e alle 21 nella sede del Sole 24 Ore si fa la serata finale. Io sono qui, grazie a Viola Bottoni, a Tiziano Bonini, a Roberto Scaltritti e a Stefano D'Andrea. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?